5-10 a Torello, a Torello. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata, si sintonizza in ascolto, breakover. Ora. Atterrata. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamata, si sintonizza in ascolto. Attenzione per cancelli della Sardegna che ti fa bene, sia la stazione del Tarromeo della Villa Sassari. E vai, finila. E vai, e ciaga. Ma Maccolino, non si è sentito, Maccolino Condomi? No, ci sono adesso, Battaglia. Cazzo, sono crepato. Cazzo, sono andato a Olbia stamattina a fare quella visita. E come mai crepato? Perché hai fatto il viaggio. Sì, il viaggio, i dolori, lo guardo, agli estremi. Ma solo sei andato? No, cosa solo? Mi ha accompagnato un amico, ma chi sei, amica vero? Questa lì è una roba da chiudere. Sto dicendo, non ne posso più. Allora io non sono amico. Ma già entra chi su? Mi ha accompagnato un amico, ho detto questo io. Ma quindi tu chi ci sei che è un amico al vivo? Ci posso credere, dai, se ti ha fatto questa cortesia, ma era una battuta. Infatti, veramente illuso è stato. Mi ha accompagnato lì, sei stato pensato che non mi hanno fatto la visita, peraltro mi hanno fatto a pizza. Un bel lunga era. La macchina tua si è andata? Lui, con la macchina di quello là si è mandato. Lui è. La pinta Olbia Zogu, tu dici, papà, non ha dato. Vabbè, è interessante che adesso hai concluso, dai. E non mi ha sbagliato la cosa. L'impegnativa quella stronza della dottoressa. E gliela devo mandare entro stasera e ancora non mi risponde questa stronza. Ma per fare la E allora? Me l'hanno fatta loro così, hanno detto mi mandi l'impegnativa perché l'ha sbagliata, ha scritto cose che non doveva scrivere. Cazzo, l'ha sbagliata proprio l'impegnativa. Oh, non ne fate né una grazia di Dio. Così a me mi sono lasciato dimenticato di mettermi il coso, l'esenzione. Una volta, mi hanno fatto pagare. Ah no, ero grillo. Anzi, io sono stato fortunato che me l'hanno fatta. L'impegnativa. Che mi hanno fatto la visita, voglio dire, perché ci potevano benissimo rifiutare. E certo che sì. La dottoressa, oltre a essere rimbambita, a che è una rimbambita, A volte sbagliano, anche il mio dottore fa così, a volte sbaglia che ti devi tornare due volte. Sì, ma quello è uno sbaglio grossolano. Se non esiste la dicitura che ha messo lì nel sistema, ma io ha copiato quello che ha scritto la dottoressa di urologia, quella che mi ha visitato, gli ha mandato una lettera, no? Gli ha mandato lì. E chi ha scritto di su che ha scritto l'urologa? allora, Maiu. Ma aspetta, Gianni, cosa ha fatto? E se non te l'avessero fatto, aveva fatto il viaggio per nulla, avresti fatto. Meno male che sono stati, diciamo, gentili. L'hanno fatta perché venivo da Sassari, poi magari a prenotarne un'altra, quando sono morto magari sarei riuscito a farla. Lo sanno benissimo loro come la sanità. Mi l'hanno fatta, ma grazie a di Dio, brutti. Interessa perché si sia concluso là. Adesso la dottoressa deve mandare la nuova richiesta, diciamo. Quella che ti ha sbagliato te la deve rifare. Infatti. E lo sa da stamattina questa stronza che l'ho telefonato davanti a quella di Ulbia, l'ho telefonata. Siccome è di sera oggi lì, però so già risetti a che cosa e ancora non mi è arrivato un cacchio. No, ma ha detto che dovevi consegnamento stasera. Certo che gliel'ho detto. E che era urgente pure perché siamo alla fine del mese. È un'asina qua, un'asina, c'è da denunciarla. C'è la dita. Io ho visto, ho preso e l'ho cambiato, quel bastardo che mi avevano messo dopo la mia dottoressa. L'ho cambiato subito, non ha durato manco una volta sono andato e buttato. Ma chi ci va in mano, lui voglio che l'ha dato una diabetologa per il piano terapeutico pure. Se me la cambio che cammino quasi dobbiamo dire. Qua wow, un casino è. No, io del diabetologo c'ho. Io ce l'ho la diabetologa, però adesso il piano terapeutico non te lo fa più il diabetologo, dà questa autorizzazione al tuo medico di famiglia. Hai capito cos'è il discorso? A me questo non me l'hanno detto, me l'hanno fatto direttamente la mamma in farmacia, il mio via email, mi manda tutto in farmacia, la farmacia mia che mi rifornisce a me c'ha già la cosa, il piano terapeutico rinnovato. E già lo so, anche a me facevano così, però dopo mi hanno dato questo foglio a dare alla dottoressa, le mani mi dovevo dargli a, prima di dargli il suo foglio. Quindi adesso è lei che ti fa tutta la terapia. Allora, praticamente il piano terapeutico lo fa lei, non la diabetologa. Hai capito del discorso? È tutto un casino. Tanto manda, invece che da un dottore, andare da due dottori. Rompermi bene io. Zitto. E vabbè, Natale, ci chiamano pazienti per quello. Interessante che tu sei bene di salute, dopo che loro ci ho tutti di. Il fatto è che sto male però di salute. Non lo vedo, non posso fare un passo e mi vengono dolori allucinanti. Vabbè, ti devi fare un'operazione, una volta che ti fa l'operazione poi non te ne abiti di. E io non c'ho dei dolori, non riuscivo a dormire anche di notte. A grida dei dolori, non ti riguardo. Stamattina mi sono venuti questi dolori quando me ne sono alzato, Gesù Cristo mio, a Ticchivi. Guarda, più di me non ti può capire nessuno, solo chi l'ha avuto certe cose lo sa, io ho sempre ordinato, malgrado abbia dolori in tutto il corpo, però quei dolori fortissimi che ci avevo prima, grazie a Dio non ce li ho più. A che punto sono arrivato, cazzo, non mi posso neanche muovere da casa, ma dimmi tu. E vedrai che dopo che ti fanno l'intervento dici, diventerai un grillo di nuovo. Dio ti intendia, se non c'è qualcosa di grave, Dio ti senta. Ma la cosa, se c'è cosa di grave, è tutto risolvibile adesso. Vabbè, c'è Garrone, ma non sì, ma non posso fare niente, non posso fare, che adesso sono a dolori, mio, da ti scrivi. Okay. Beh, tu c'è la concetta che qualche cosa ti aiuta a fare. E quando c'è la zona, come ti seguivi, devi fare tutto l'altro, lavare la casa, pulire, lavare la roba, fare tutto quello che fa la donna. Io già lo so. Ma io sono, guarda, in una situazione che fa... Scappasse a Natale, poi sarà solo un brutto ricordo. Il mio ti senta, non ti dico qua. Io penso a tutto, che tu puoi fare. E quindi si è fatto il viaggetto, gira. E non vi siete trattenuti a Olbia, siete andati via su. E come siamo usciti, ce ne siamo subito tornati, guarda. Verso le tre siamo arrivati qua. Credi che... Oh, yeah. Gesù Cristo mio. Esasperati, allora. Avete aspettato un bel. E oltre che ho aspettato un bel... ero a dolori, non stavo bene. Quando a viaggia così, veni marimi. E che ospedale l'hai fatto, Natale? Al Matter. Se vedi quell'ospedale ti metti le mani in testa. Cazzo, veramente organizzati, bravi, cazzo. Guarda, del servizio non mi posso lamentare di niente. Troppo bene organizzati, non ne ho mai visto cose così. Mi ha detto che è privato, però Giorgio mi ha detto, quello che mi ha accompagnato. Dice, guarda, tutti i signor da Bellone, Rinnumari, Ribassoni, quando mi chiamato, sono andato all'accettazione in Chivi, che ha deciso il numero mio, mi sono arrivato a Sao, di era la DAC, subito mi ha chiamato, Guido, non come intensa rimane fatta a città 2 ore, ma fa una DAC. Non ringraziamo, vuol dire amore. E lì ci lavora Lucia, la figlia di Aldo, quello che abita in fronte a casa, lavora lì. Al Master Olbia. Caffa. Però lei sta al cupo. Ah, ho capito. Guarda, è veramente bello come ospedale, bello organizzato, là, diciamo così. Grazie. Subito mi ha tolto l'ago, come abbiamo finito. No, come in te a Sassari. A Sassari con le bigliate e mucci. Già, mi hanno fatto la città, prima mi hanno messo l'ago, poi mi hanno fatto aspettare una mezz'oretta, mi sembra, prima di farmi l'attacco. Guarda, a Sassari, a Olbia Gattù, come ti ha finito, mi ne ha subito di raggo l'ago, non mi hanno fatto la città un'ora a battere a mini raggo, no, come ti ha Sassari. Gesù, grazie. E quello è l'ospedale un po' elite, diciamo, più elite degli altri, come ospedale, poi nuovo. Ma so anche dove è, perché Marco ha lavorato praticamente andando al Matterubbia, lo passi, e subito dopo il Matterubbia c'è un bivio sulla sinistra, devi girare lì e bisogna per andare dove ha lavorato Marco. E lì vicino al Matterubbia, appunto, subito dopo. Ehi, arrivi lo Bullman, Chivi, lo Drandi, la Zendai, mi arrivi anche Chivi proprio da Lanza Ripidari, la Gentoria che vira, ma lo sai, la qua, e io dico da tutti i paesi andare in Chivi. E so che sono anche bravi, e ci sono medici milanesi, perché l'ospedale è un ospedale milanese. Ehi, bravi, bravi sì. Non c'è confronto come mi hanno fatto questo attacco qua a quella che mi hanno fatto, ed era longa, chi chiami, più longa di chi sa di Sassari, a chi se la segna è fatta meglio, boh, non lo so. E saranno macchinari più nuovi anche, che vanno più a fondo, dai. E boh, evidentemente sì, cosa ne so. Io so solo che sono veramente bravi lì. quindi non è, ne è valsa la pena là, di fare un po' di chilometri, 120 chilometri al giorno. Lo so, però per dire, cazzo, come ti mi hanno trattato in Chivi, a Sassari non mi avrebbero trattato. Cazzo subito, signor Melis, ma chiamato subito, come ti sono cazzato me. Noi mi ha fatto la città assai, no? Mi ha chiamato, mi ha portato in un ufficio lì, dove c'era un lettino, si sdrai che sto arrivando. Ma subito poi ci raggo in Chivi. Poi mi ha fatto mettere. Perché volevo. A chi pure arriva, ma ne fatto qui tutta chi sta in pulla di leva. Cazzo chi si so di russo a vero. E dai, meno male ti si è trovato bene, dai. Se non altro, qualcuno in ospedale si trova bene, non sono tutti, perché quando vieni qua a Sassari è un ospedale un po' la più di su di Sassari, è un ospedale, diciamo, comune. Non è a livello del Mattilubbia è un ospedale lì. Sto dicendo, come dal giorno alla notte già, sono gentili, guarda, è tutto un altro trattamento. Io pensavo che venisse anche Concetta, magari andava a trovare il figlio, pensavo che andavate con Concetta. No, è venuta anche lì, ma come fai? Stanno lavorando marito e moglie e quindi non erano disponibili, cosa c'è a girare i cattoli a Ghisi? Gerusalemme mi gira mi a Olbia per fare il esame, però non li abbiamo disturbati che stavano lavorando anche loro. Ah beh, ci stavano lavorando, no, un'altra cosa, no, interessante che c'era l'intenzione, poi già capita che già vengono, e quando si lavora un casino, a me sono venuti una volta da Milano, dal paese di mio padre, sono venuti in Cuba e si sono fatti fermare apposta in piazza perché volevano trovare a mio padre, volevano fare la carambata, dai. Tutti i paesani di mio padre. E mi ha telefonato questo qui, mi ha detto guarda che sono paesani di tuo padre, stiamo facendo, organizzando questa cosa, non è che lo puoi portare in piazza. Io dovevo entrare alle 5 a lavorare, alle 5 e un quarto, però mi dispiacevano farli incontrare. Tu devi vedere quando l'hanno trovato, quando si sono trovati, mio padre è impazzito, si era abbracciato di tutti. Io ero grido. Gesù. E chi si rifatti in questi cosi? Si fatti in questi? Oh, yeah. Io sono andato con Giorgio, quello che è medico, sono andato a Olbia. Ah, si è prestato, proprio gentile, si vede proprio i continentali, sono diversi. Sì, è vero, sono molto più affetti, molto più disponibili. Sì, loro dovevano andare in Corsa Smeralda, no? E hanno dirottato in Puma, l'hanno fatto dirottare a Sassari e poi per trovare mio padre, perché volevano trovare. Erano tutti amici di fatto di mio padre, poi tutti i paesani si conoscono, capito? È stata una cosa commovente veramente. Me lo posso immaginare, almeno ha visto tutti i paesani. E allora, ce n'erano anziani come lui, poi tutti dicevano, oh Fio, Fio, a me mi dicevano, Fio, sei uguale a tuo padre. È un nero dialetto dentro. C'era anche la madre di un ciclista famoso, adesso non mi ricordo come si chiama, uno di quelli famosi che correva, che era famoso, dai. E c'era la madre anche uno di quei ciclisti, perché mio padre, il paese di mio padre è famoso perché tutti i ciclisti che ci sono in quel paese hanno fatto carriera, capito? Quindi si conoscono tutti, però mio padre era appassionato di ciclismo per quello, perché nella sua paese c'era la cosa del ciclismo, era lo fissato. E anche Giorgio, i continentali due ha tutti i biadi della bicicletta. Io il giorno ando a travagliare in bicicletta, non è biglia macchina. Ando a travagliare in bicicletta. E papà per quanti anni l'ha fatto la taglia? Sono ricordo. Ehi, perché gli piace, ai continentali gli piace la bicicletta, sono abituati. Ce l'ha da una dura, l'ha fatto cadere e si è rotto il braccio, entrava a tamponare. Del cane che sta abbaiando perché ha sentito la polizia, deve che retata saranno i venti, non divisino. Ogni tanto è timido. Che ne aveva arrestato uno che lui stava passando e ha visto scoppato mentre l'arrestava. Poi non si può più vivere tranquilli, no, con questi genitori. Cazzo, se non mi gioco più venendo in pochi, mi godi sparatori e affarratori di tutto e di più. E si sono messi anche a sparare qua, di tutto ne hanno fatto, sono spacciatori di droga, e no che vedi tutto e di più. Vabbè, non... alle 11 di mattina anche vicino a casa, lì zona alta, non dico a via, dove abita con la persona che conosciamo noi, hanno sparato alle 11 di mattina, non ti dico altro, ed era di niente. Ehi, cazzo è qua, non hanno sparato lo stesso da queste parti. Due voci, una voce hanno imparato burro in gabbia ira, chissà che hanno imparato con te. A San Donato? No, ma dopo nell'altro centro studico, dall'altra parte avevano sparato. Però puoi stare manco tranquillo quando esci, guarda. Non puoi stare manco tranquillo quando esci, perché magari ti stanno sparando tra loro e pigliare a te la sera. Infatti non si sa mai, qualche proiettile vagante. Quelli sono dalla pistola facile, quei nigeriani, proprio sono bastardi, hanno la faccia proprio dei delinquenti. Ehi, allora, sono tutti delinquenti, sono tutti nigeriani quelli, non sono come i senegalesi che sono bravi lavoratori, lì ci sono tutti uno più delinquente di l'altro. È proprio l'indole che c'hanno. Chiedono delle musiche, ti guardano male se non li dai su. Una volta andavo all'ospedale, che su qui mi ha chiesto delle musiche, ha detto che non ne avevo e mi ha guardato male. Se ne sei mai più. Sto aspettando che questa, vi dico come ti si piatta, c'è la dottoressa. Ho aperto la posta e non è venuta. Ma tu non facevi prima andare la terra e fatela fare gli scusa, dovevi andare direttamente, così eri sicuro. Ma io non potevo andare, sono durata a Durori, chi Cabri a Riguattro, come facevo andare già? Sono a dolori, sono anche adesso ce li ho i dolori. Sono andato a Olbia, mi ho preso una tachipirina per vedere se mi realizza rigava. Un po' come realizza rigava, ma passa subito l'effetto, cazzo. Da voi di base in aria, non venuta di qua. Se l'ho potuto andare, era andato a... di brutto, era andato. E per darmi questa corretta, da questa impegnativa che lì l'ha sbagliata e deve scrivere com'è nel sistema, non come vuole lì, capito? Nel sistema quella dicitura non esiste, a quanto mi hanno detto questi di Olbia. E se non corrisponde l'impegnativa, non vari. Infatti, così aveva fatto la dottoressa mia. Sono andato a fare la lastra via Roma e mi ha detto che la dovevo pagare perché non aveva specificato il perché la dovevo fare. E quindi praticamente mi ha detto che deve pagare 25 euro. E io gli ho detto, così tanto, non sto lavorando, ho cercato di farmi pena. E mi ha detto, ascolti, faccio una cosa, venerdì a 15, ma non dica nulla. Figurati, e meno male te l'ha fatto per favore. Io sono dovuto andare a pagamento in tanti posti, cazzo. L'unica che mi è andata bene via Fasubio, mi ha tappato la vena subito e non ha giù pagato. Una cosa, hanno imbigliato l'esenzione e quindi non ho pagato. Perché dovevo fare fare l'esame della creatinina per poter fare la TAC, se no non mi avrebbero fatto la TAC se non avrei avuto quello lì. Ma adesso al centro diabetico ultimamente sei andato? Certo che sono andato. A marzo sono andato. E da dove si entra adesso con la macchina? Perché prima si entrava prima dei carabinieri, adesso non si può più entrare da lì. No, dal manicomio si entra. L'altra volta ho sbagliato io, ho visto il cancello, sono entrato e dove atterra l'elicottero di soccorso. Ho parcheggiato la macchina, dopo che ho venuto la visita sono tornato e c'erano questi qui con le divise. La sua la macchina, come me l'ha messa qua? Lo sa che qua atterra il soccorso? Ho detto, vabbè, mi scusi, ma non sapevo, pensavo che potessi metterla, perché dalle altre volte entravo al cancello, ma quello l'ho trovato qui e sono andato quello dopo. Ma come la mano battuta? Ho detto, vabbè, no, se non lo sapeva, però meno male che non ha atterrato, perché quando atterra con l'eliche butta tutta la roba, la butta sulla macchina. Gianni, buonasera, ciao Nathalie. Pasco, guarda che si entra dalla parte del manicomio, dalla parte del cancello centrale, e devi andare in fondo, devi andare, sino arrivare al centro diabetico, da davanti. Buona sapessi, perché la scorsa volta ho sbagliato, te l'ho già sentito, lo so fare, sono andato di atterrare i soccorsi. L'ho detto al dottore, perché ci hanno chiuso il cancello, ci avevano dato il permesso, dopo ce l'hanno chiuso. E niente, adesso dice dovremmo organizzarci per farlo riaprire, perché non è possibile che io vado a fare tutto questo giro per arrivare. Comunque ancora non c'è nulla, c'ero due settimane fa io e non c'è nulla di dottori, altri che chiamano loro, ci hanno scritto dall'impegnativa che gli ho fatto vedere, ci hanno scritto tutto, appena ci sono i medici chiamano. Non ci sono dottori, allucinati. Mancano i zinco, ne mancano. Oh, e dottor Fresu c'è? Ma io se ne è andato in pensione Borughisso. Ah, oh, Fresu no, Fresu è giovane. E se ne è andato il figlio di cosa? Di l'altro. Come si chiama? Quell'altro se ne è andato in pensione, non mi ricordo come si chiama, che c'era anche il padre. Ci avevo e se ne è andato in pensione il primo di marzo. Dottor Fancillo? Sì. E la Natalia, è così. Dottor Fancillo, se ne è andato il primo di marzo, poi se ne sono andati altri due in pensione e poi dopo. Che nei primi di aprile se ne sono andati altri due lo stesso. Sono cinque che ne mancano. Se ne vanno in pensione non ne prendono altri, te ne immagini. Break. Avanti. Buonasera a tutti, Antonio da questa parte. Ciao Antonio, mi sentito, va. Poi a casino. Ecco perché ti sto dicendo che mi ha dato quel foglio per la dottoressa mia, la diabetologa. Deve essere a chi si inizia tutti i fuggendi. Sì, non la vedi tutti i rimani. Sì, su cazzo, che casino la sanità. Ciao, ma non è che nessuno di voi ha qualche 40 per pezzi, no? Mi serve di cuore il capagliano, mi serve. No, io non ne ho. Che c'avevo dei componenti, ho controllato se ce l'avevo, invece non ne ho. Che pure io meraviglia, solo che vabbè, ma che mi ha pensato qua? Avevo lo stesso racconto, ma va bene lo stesso. Anzi, basta ordinarlo da internet, se cosa ci vuole. Quando mi c'ero sul maracchino a me, l'ho ordinato da internet. Qui in Natalino lo sa dove ordinarlo. chiedilo a lui, dopo le ordinate, me le ha ordinate tutti. Stesso cazzo. Ma non sono in condizioni adesso, che sono addolori già. Figurati se sono in condizione di ordinare pezzi. Chiedilo magari, lo sai a chi? A Franco California, se ce l'ha qualche cappaia. Davvero, mi avvalutiamo. Che fine ha fatto Franco? Io non lo sento da un po', anche perché non so bene, Salvato. Sono andato a farmi gli esami del sangue dove vai tu. Sono andato. Illuso veramente, non pensavo fosse così. Beh, come ti sei trovato? Benissimo. Ma dopo è quella veloce, quella c'ha la mano d'oro, c'ha. Vai, mamma ha ciullato tutti i brazzi, mi ha cavato lo sangue da coso, mi ha cavato da rimani. Un attimo che mi è arrivata la roba dalla dottoressa, scusate. No, a me me lo ha sempre prelevato e non me l'ha mai fatto, me l'ha sempre preso bene il sangue, con la giovane a me me lo prende. Gianni, ci risentiamo dopo. Sì, allora io sto andando a portare il cane, e sto per mollare anch'io, dai. 5 minuti ancora e poi me ne vado. Ci sentiamo dopo, alla prossima. Avanti. Oh, avanti. Ciao, Toto, ce la risentiamo. Alla prossima. Puoi chiedere a Vittorio Giove se ne ha... perché non gli riparavo i baracchini, magari qualcuno in più ce l'ha, vi è rimasto. Oppure a Fabrizio, magari ne ha qualcuno, non lo so. Oppure a Franco California. Quindi te lo posso, se no, se no bisogna ordinare da internet, vai su internet, cerchi il modello, metti tutta la sigla e te lo mandano, solo che te ne mandano 10, te devi comprare una decina. Poi te lo attacca una curva, vendeva. Un cazzo non te ne co. Lo so, allora ti tieni il baracchino sfasciato, una decina non ti costano nemmeno tanto. Costano poco, mi vedete che dici. Quanto costa? Sono i finali, poi gli altri pezzi costano una fesseria. Prova a chiamare a Fabrizio, magari ce l'ha qualcuno. Beh, da lo sento, cazzo di amo, crepato dopo, si è crepato, certo. Ehi, anche tu mi hai rubito di attaccare sempre, la faccia ti ha fatto rientro, magari avevo fatto stazionare o cosa del genere, ti ha fatto rientro e c'è stato nell'apparato. Ma cosa vedi bene già, che non ha attaccato nulla? Ma non è lì, tu come fa a partirti così senza attaccare nulla? Ciappa, allora per me è successa una cosa, è successa. C'avevo l'impianto a bomba, c'avevo. Sicuramente, come sono andato a schiacciare il microfono, mi ha fatto rientro lì, capito? Chi lo sa, non lo so, no, quello, questa cosa non riesco a... Non ti posso dire né sì né no a tu, però solitamente questi lavori qua lo fa quando tu, per dire, c'hai l'idea attaccato, c'hai stazionale e ti rientra all'interno dell'apparecchio e ti brucia il tutto. Già, è impossibile che lo stazionare, dai. Ma uno e uno, cioè, ma proponendo, diciamo. Se non è anche mai, magari c'è stato scaloniato qualcuno, dove ti dico? Sicuramente, ma abbiamo impianto tutto volume, io coglione, ho schiacciato tutta la fia rossa, l'ha cremato malissimo, è entrato l'audio troppo forte. Comunque, magari qualcuno ce l'ha qua, sai, magari ce l'ha, se no, devi ordinare per forza, perché se no ti tieni l'apparecchio rotto per una cazzata. Scappa, se non lo trovo a nessuno lo ordinerò e poi gli altri me li vendo. Anche Tonino prima li riparava, chiedi a lui se ne ha qualcuno. No, non ne ha. ce l'ha e c'è il lotto di Daliero, vai. Non ce ne sono, devi andare per forza a Moro e a far aggiustare, non c'è nessuno che te l'aggiusta. Vabbè, non dire Moro perché è vicino, come se facevo una passeggiata glielo portate, cioè, non esiste che ce lo butti via, però con più finale del cavolo, assolutamente, io la penso così. Infatti a me mi si è sfondato il finale, però via, piano piano già lo trovo e qualche cappagliante ne uscirà fuori, e se no l'ordino appena che c'è soldi l'ordino, ma bisogna vedere, mi difendo e via. Ma non ne valeva la pena, era vinto, insomma, era già bruciato dritto, un fiato di bruciato non ci fosse bastato. C'era già invecchiato la sola, era nuovo ma c'era invecchiato la sola, era tutto bruciato. E qualche colpo c'è stato, qualche cosa del genere, ma si parla di tanti anni fa, non adesso. Poi ho preso i coperti, tutte le manopole e poi l'ho venuta. Prima necessità un figlio e la casa, da voi se mi ordina in più ti accapiterà che ti trovi qualche lavoro fisso poi. Se quelli stronzi mi avrebbero fatto lavorare, a me non vuole. Vabbè che non è che ce ne sia. Imbecille mi avrebbero fatto lavorare molto di più, io l'avrei preso, o se mi avrebbero pagato, l'avrei preso una parecchio uomo, ma cosa abbiamo? Ma dove andavi prima non sta più andando la bambolai? Qualche volta ci sto andando, ma siccome mi devo andare anche solo dell'incidente, mi devo andare. Mi sono corrompito, hai capito? Mi sono veramente rotto le scatole, no? Non me la posso via così, cioè non ce la faccio più via tale così, io voglio un lavoro fisso, un lavoro che ce l'ha tutti i giorni, non posso stare così. E tu, devi conoscere qualcuno che ti possa aiutare, che pulito. Sono presente a... sono una massa di gariati, cioè io sto sempre andando nel conto del però capo, se non mi dà una mano non ti posso io, cioè io vorrei anche, purtroppo la fortuna non gira a me, no. La verità è qualche nuoto casa, casa con Ciazzui e poi lui. Prima pensano ai parenti. Un amico mio era andato dal sindaco tanto tempo fa, non lo so se lo c'è adesso. Le aveva detto prima penso ai miei pariti, poi penso agli altri. Sì, non sono più criticati gli altri, insomma. Beh, praticamente penso si chiamasse il migliore o anche l'uno. La parente la gioia. Adesso la dico, che ti aggiungisco di dove sia, beh, quello che ho avuto io, tutti i problemi che ho avuto, è castigarli forte. Che non lo fate di più visto perché, perché si fanno grande perché hanno due cinque hai detto non farsi male. Già succede che vedrai che prima o poi già lo trovi tranquillo. Adesso ti sembra tutto quanto nero perché vedi che non c'è uno sbocco, ma vedrai che bene o male lo trovi. Questo vuole scendere giù, anzi ti devo lasciare, dai, ci sentiamo. Buona serata, ciao a tutti, anche a Natalino e a tutti gli altri, dai, ci sentiamo. Buona serata a tutti. Ciao, ci sentiamo. Ma poi ci sento.